24 mattino. Le 8:18 minuti, 349-238-6666 per i vostri messaggi. Siamo a 24 mattino e parliamo di economia. Soldi e dintorni. Deborah Rosciani, buongiorno e ben ritrovata. Grazie, buongiorno a tutti. Oggi siamo qui con l'elmetto perché il tema è di quelli caldi, no? Che appassiona gli italiani. Sì, tra l'altro anche essendo partiti di recente con Soldi e dintorni è già da un paio di volte che lo affrontiamo, anzi forse questa è la terza volta. Però insomma sul tema della casa torneremo spesso perché indiscutibilmente è un tema trasversale. Allora, affittare una casa. Affittare una casa. Il costo che ne consegue. Esatto, per certe fasce sociali è un'impresa piuttosto ardua. Noi avevamo già parlato della situazione delle famiglie italiane tra quelle che continuano a comprare casa e quelle che invece devono affittarla, affrontando qualche settimana fa il risultato del primo rapporto Nomisma e del network Solo Affitti, dal quale era emersa una situazione piuttosto interessante, una situazione che si era capovolta rispetto a quella che invece si registrava negli anni 70, quando circa il 44% delle abitazioni erano date in affitto, il 51% circa erano di proprietà. Negli anni 2000 invece la situazione, ricordiamo appunto, si è capovolta perché adesso oltre il 70% delle famiglie italiane hanno una casa di proprietà. C'è però un'altra percentuale interessante dalla quale partiremo per il nostro ragionamento di oggi. Fra il 1999 e il 2008 i canoni di affitto sono aumentati del 130%. È un dato che è sicuramente allarmante ed è contenuto nello studio condotto dal SUNIA, che è il sindacato degli inquilini, in collaborazione con la CGIL, sull'offerta di abitazioni in affitto nelle aree metropolitane. Allora, questo è lo spunto che abbiamo preso per parlare un po' della situazione delle famiglie che cercano casa in affitto ma che oggettivamente fanno qualche difficoltà a spendere 1.500 euro, anche 2.000 euro per una casa di medie proporzioni. Buongiorno a Luigi Pallotta, segretario nazionale appunto del sindacato inquilini. Pallotta, eccoci. Buongiorno. Benvenuto. Buongiorno. A Soldi e dintorni, anche a Fabio Pucci, invece il segretario generale dell'UPI, che è l'Unione dei Piccoli Proprietari Immobiliari. Pucci, buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie. Allora, Pallotta, partiamo con lei. Abbiamo già dato il dato centrale di questo rapporto che avete diffuso un paio di giorni fa. Dove si registrano le punte più alte per quello che riguarda i canoni di locazione? Vabbè, lo immaginiamo già, saranno i grandi centri urbani, no? Sì, sono le aree metropolitane, segnatamente le città più care sono Roma e Milano, seguita un'incolatura da Firenze e Bologna. Ecco, in Italia appena il 20% delle famiglie occupa la propria abitazione in affitto. Quali sono le fasce sociali più interessate appunto evidentemente alla casa in affitto piuttosto che alla proprietà? Ma sono famiglie monoreddito, sono molti giovani che sono in cerca dell'abitazione per uscire dal nucleo familiare originario, e adesso c'è la grande pressione anche di tutti i lavoratori extracomunitari che sono presenti nel nostro paese. Canone medio pagato? Ma il canone medio pagato si attesta intorno ai 740 euro mensili, il che significa che bisogna impegnare tra il 30 e il 40% del proprio reddito per far fronte soltanto al pagamento dell'affitto se si lavora almeno in due nella famiglia, altrimenti la percentuale aumenta ancora. Beh, Pallotta, però mi risulta che queste 740 euro rappresentino la cifra media pagata da chi ha già una casa in affitto, perché chi si accinge oggi a mettersi alla ricerca di una casa da affittare forse è costretto a sborsare qualcosa di più. Senz'altro, quella era la cifra riferita ai contratti in corso. Se oggi una famiglia va sul mercato per cercare un'abitazione in una qualsiasi periferia di una nostra città, deve pensare di investire tra i 900 e i 1.200 euro per avere un bilocali e servizi. Ecco, queste sono le cifre, però la ricerca di case in affitto continua ad aumentare, Pallotta. In questo momento è in aumento. Sì, e voi che vi interessate di economia dovreste verificare, toccare con mano come le leggi del mercato e dell'economia con il mercato delle locazioni spariscono. Aumenta l'offerta, dovrebbe calare il prezzo, e al contrario invece il prezzo non cala, anzi aumenta. Perché? Ma per tutta una serie di motivi. Il primo perché appunto non ci sono state politiche di sostegno all'affitto. Nel nostro paese storicamente tutti gli interventi fiscali sono stati quasi sempre in direzione, anzi sempre in direzione dell'acquisto dell'abitazione. Se invece si invertisse questa tendenza e si incentivassero i proprietari con degli sconti fiscali, io penso che si allargherebbe il mercato e si calmierebbero i canoni. Allora, sentiamo i proprietari che cosa ne pensano, se è solamente un problema di scarsi incentivi fiscali. Peraltro, allo studio del governo ci sono diverse misure che stentano a decollare. Fabio Pucci, segretario generale dell'UPI, l'abbiamo detto, l'Unione dei Piccoli Proprietari Immobiliari. Qual è la vostra visione? Ci sono molte case teoricamente disponibili nel nostro paese che non vengono affittate, preferite non avere problemi o comunque cercare, come dire, l'affittuario, l'interlocutore che vi garantisca il prezzo che volete, e in caso contrario si preferisce mantenere un'abitazione sfitta, libera? Ma io oggi credo che sia assolutamente impensabile e impossibile mantenere una abitazione sfitta, non ci sono proprio i presupposti, il problema economico è molto grave e io credo che i piccoli proprietari, che poi sono quelli che sostengono il mercato dell'affitto e il mercato delle locazioni, perché come giustamente avete detto voi, se l'80% c'è la proprietà, solamente il 20% che è in affitto, ed è poi quel 20% che ha grossi problemi, sono quelle fasce sociali che dovrebbero naturalmente essere protette, ma non lo può fare la piccola proprietà immobiliare questo, è compito dello Stato, è compito del governo. Il governo, devo dire, ha messo mano al piano casa, che riguarda poi soprattutto quei destinatari di alloggi che sono quei nuclei familiari a basso reddito, ma questo non può essere, diciamo così, a carico della piccola proprietà immobiliare. Noi qui parliamo sempre di un mercato che ha una sua redditività. Che ci siano stati degli aumenti da 10 anni a questa parte è innegabile, sarei stolto a dire che no. Non sono quelle proporzioni che dice il SUNIE, che dice la CGL, perché secondo me non mi risultano questi rincari. Devo dire che è tutta una serie di problematiche economiche sorte in questi ultimi tempi, non ultimo anche l'euro che ha detto la sua su questa vicenda. Il problema però fondamentale è un altro. È che chi mette le case in affitto, cioè la piccola proprietà immobiliare con 4 milioni e mezzo di contratti di locazione, che non sono pochi, un minimo di redditività la deve avere. Ma se io vado a comprare un appartamento che oggi, da 10 anni a questa parte, in questo momento c'è una ipotesi di stagnazione perché l'economia mondiale ha frenato un po' tutto, ma da 10 anni a questa parte chi va ad investire in un immobile lo paga quello che lo paga, e se lo deve mettere sul mercato per avere una redditività su quella imponibile, beh, è chiaro ed evidente che qualche cosa deve sostenere e deve avere. Allora il problema è diverso. Le fasce sociali deboli devono essere certamente tutelate, ma la tutela non deve passare attraverso di voi. La possibilità di abbassamento di questi affitti, allora cominciamo a parlare di detassazione, allora cominciamo a dire che dobbiamo trovare degli incentivi per l'affitto, che dobbiamo concedere alla piccola proprietà immobiliare che dà in affitto di inserire quella detassazione che noi abbiamo sempre richiesto, ma che sembrava che con questo nuovo governo trovasse ingresso, al momento non c'è stato, di quella che viene chiamata la cosiddetta cedolare secca sulle entrate, cioè vale a dire il 20% della imposta fiscale. Pucci, è stato chiarissimo, noi tra l'altro dobbiamo chiudere, comunque abbiamo capito quali sono anche le vostre contestazioni rispetto al dato che il SUNIA fornisce ma poi anche quali sono proprio le esigenze dei proprietari per tornare a mettere le case sul mercato e quindi la politica fiscale più incentivante. Purtroppo non riusciamo a parlare anche dei provvedimenti che sono allo studio da parte del governo, allora magari questo pacchetto ce lo riserviamo per un'altra puntata di Soldi e Dintorni. Ringrazio Luigi Pallotta e Fabio Pucci per essere stati con noi e io restituisco la linea ad Alessandro Milan. Eccoci qua, e allora alle 12 rapidamente oggi Deborah. Alle 12 a Salvadanaio affrontiamo il rapporto fra il cittadino italiano e il fisco, c'è un libro molto interessante che ha scritto un collega del Sole 24 Ore, Dino Pesole, su questo, e quindi parleremo insomma di noi come contribuenti, come ci comportiamo, il patto di Dino Pesole. Le 8:33 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, uno sguardo alle ultime notizie. La Corte dei Conti lancia l'allarme, la corruzione nella pubblica amministrazione c'è e si concentra nel settore sanitario, tangenti e sprechi rimangono uno dei grandi mali della macchina pubblica italiana. Si svolgeranno nel pomeriggio a Paluzza in forma privata i funerali di Eluana Englaro, non saranno presenti i genitori Beppino e Saturna. Se Mediaset vuole cacciarmi, che lo faccia, basta che non si nasconda dietro i cavilli, è quanto ha scritto Enrico Mentana in una lettera pubblicata oggi dal quotidiano Libero. Mentana ricostruisce quanto accaduto lunedì sera, dopo la morte di Eluana e le sue dimissioni, perché Mediaset non ha modificato il palinsesto di Canale 5. Non ho mai chiesto di cancellare il Grande Fratello, scrive Mentana. Dura la replica di Mediaset, ci ha sconfessato in modo radicale e pubblico, ha detto il direttore generale Mauro Crippa. Infine, grande spavento per Michael Schumacher. L'ex ferrarista è caduto in pista in Spagna durante il collaudo di una Honda, ha perso conoscenza, ricoverato con un trauma cranico, ha tranquillizzato tutti dopo i controlli. Sto bene. È il momento del commento del direttore del Sole 24 Ore dedicato proprio alla corruzione in Italia, l'allarme lanciato dalla Corte dei Conti. L'asterisco di Ferruccio De Bortoli. Siamo un paese corrotto? A leggere la relazione della Corte dei Conti sembrerebbe di sì. Peggio dei tempi di Tangentopoli. Per la verità, basterebbe qualche volta guardarsi intorno per scoprire che il fenomeno nella sanità, negli appalti, nei rapporti fra burocrazia e imprese, ma un po' ovunque, è una delle poche industrie fiorenti del momento, nel pubblico e nel privato. Qualcosa di concreto però si potrebbe fare nel tentare almeno di arginare il fenomeno, subito, approvando per esempio le nuove norme sulla magistratura contabile contenute nel disegno di legge Brunetta o ripristinando la piena pubblicità delle consulenze della pubblica amministrazione. Dopo Tangentopoli, inchieste non prive di eccessi e di ingiustizie, ci si è preoccupati molto di come si svolgevano i processi e poco del fenomeno della corruzione che li aveva avviati. Siamo stati giustamente più garantisti, come si deve essere in uno stato di diritto, ma la categoria dei colpevoli alla fine è scomparsa, come se niente fosse accaduto. Comunque possiamo stare tranquilli. Della Corte dei Conti ci si occupa una volta l'anno, il giorno dopo non ne parla più nessuno. Buona giornata. Grazie a Ferruccio De Bortoli, a domani. 349-238-6666 per i vostri messaggi. Un paio di giorni fa San Cipriano d'Aversa, un imprenditore, spara a un ladro che si è introdotto nella sua villa. Legittima difesa? No, per il magistrato è omicidio volontario, questa è l'accusa di cui deve rispondere. Tra l'altro oggi a Milano è attesa una sentenza importante di primo grado per Giovanni Petrali, tabaccaio. 17 maggio 2003 reagì sparando a due banditi durante una rapina. L'accusa ha chiesto 9 anni e mezzo di carcere, ha detto non è legittima difesa ma vendetta. L'accusa è avere inseguito addirittura fuori dal locale, avere freddato uno dei due rapinatori. Manco a farla apposta, leggo l'Ansa, è uscita un minuto fa, un pregiudicato al la leggo con voi, è entrato in una casa di Formicola, provincia di Caserta, è stato ferito dal proprietario con alcuni colpi di pistola al braccio, all'addome, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Santa Maria Capua Vetere. Notizia, ripeto, battuta dalle agenzie pochi secondi fa. Voglio salutare Fabio Roia, magistrato, consigliere del Consiglio Superiore della Magistratura. Buongiorno Roia, benvenuto. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Senta, quando si sente parlare di legittima difesa, la legge è stata cambiata un paio di anni fa e si è detto più licenza di sparare da parte di chi viene offeso. Ci dica quali sono i limiti, quali sono le cose da dire per capire cosa è legittima difesa e cosa no. Ma innanzitutto lo slogan più licenza di sparare sarebbe un messaggio fuorviante. La legittima difesa è uno strumento di riserva che il nostro codice prevede e che consente la non punibilità di chi commette un fatto grave, come può essere una lesione o addirittura un omicidio, a determinate condizioni. Questo deve essere la reazione di un pericolo attuale alla persona, quindi alla vita propria o alla vita di un prossimo congiunto o alla vita di una terza persona, ma ci devono essere due condizioni essenziali: l'attualità del pericolo, e quindi ci deve essere una contestualità di percezione e di esistenza del pericolo e di reazione, e la esatta proporzione fra quello che uno subisce in termini reali o di minacce e quello che uno fa. Facciamo un esempio concreto: uno entra in casa, io ho una pistola, lo grido, questa persona si dà alla fuga, gira e scappa, io gli sparo alla schiena, questo in ipotesi così, mettiamola, poi ci sono ovviamente tutta la dinamica da stabilire, ma in astratto questa è legittima difesa oppure no? se la persona scappa non è legittima difesa perché non c'è più l'attualità del pericolo. Se la persona non scappasse e rimanesse, questa sarebbe in ipotesi legittima difesa, ovviamente con tutte le variabili del caso, certo, perché certo. Evidentemente poi la norma ha una sua rigidità e deve essere applicata caso per caso dal giudice. Un altro esempio concreto, come è successo a San Cipriano d'Aversa, poi anche lì bisognerà determinare, ma l'imprenditore si è affacciato dal balcone, ha visto entrare nel giardino e ha sparato dal balcone sostanzialmente. Anche qui pare che il colpo sia arrivato alla schiena e dunque si pensa che la persona stesse andando via, stesse recedendo dall'entrata, ma comunque sparare dal balcone, ecco. L'idea cosa... Ma guardi, nel 2006 è stata ampliata molto, come diceva lei, l'istituto della legittima difesa, prevedendo una presunzione di proporzionalità quando il fatto si svolge nell'ambito dell'abitazione privata. Però rimangono sempre le precondizioni, ci deve essere un'aggressione in corso e la condotta violenta, in questo caso l'esplosione del colpo di arma da fuoco, deve essere un'immediata reazione all'aggressione all'offesa. Che uno subisce. Se non ci sono queste due concatenazioni temporali, evidentemente l'istituto non può essere applicato. Allora, io vorrei andare a Milano, vorrei dire dall'inviato, no, in realtà non è un inviato, ma voglio salutare l'onorevole Matteo Salvini della Lega Nord. Buongiorno onorevole, ci sente? Buongiorno, ma facendo il giornalista faccio volentieri anche l'inviato. Vabbè, inviato no, ma non nostro, per carità, non lavora per Radio 24, è onorevole della Lega, si trova davanti al Tribunale di Milano perché tra pochi minuti, credo alle 9:15, inizierà l'ultima udienza con la difesa, poi parlerà e poi ci sarà la sentenza probabilmente in giornata di appunto di Petrali, tabaccaio che colpì uccidendo, insomma, reagendo, però l'accusa è 9 anni e mezzo, fu vendetta secondo il PM. Perché la Lega manifesta davanti al Tribunale, chiedendo l'assoluzione addirittura? Ma perché siamo di fronte a un uomo di 74 anni che ancora oggi, dopo 6 anni di processo, lavora, si alza alle 7 della mattina per andare nella sua tabaccheria in piazzale Baracca, che subì la sesta rapina durante la quale misero la pistola in faccia a lui e alla moglie dopo averli schiaffeggiati, insultati e minacciati, e che reagì a suo dire, secondo le perizie della difesa di cui non abbiamo motivo di dubitare, all'interno dei locali del negozio con il rapinatore che poi si trascinò e morì all'esterno del negozio. Quindi chiedere 9 anni e mezzo, quindi 114 mesi di galera per un uomo di 74 anni con la fedina penale pulita, in cui erano entrati per la sesta volta nel negozio, mi sembra veramente al di là di ogni bene e di ogni male. Però poi... lei è d'accordo che un paio d'anni fa passò questo slogan errato, più licenza di sparare, più licenza di uccidere da parte di chi viene offeso? Fu quella, magari quella messo nei titoli, però di fatto fu passato un po' così come messaggio. Quella riforma fu fortemente voluta dalla Lega per appunto ampliare le possibilità. Vi ricorderete il caso dei gioiellieri di Milano, di tanti artigiani commercianti che passavano dalla parte del torto, e poi bisogna valutare caso per caso. Ovviamente è l'ultima ragione, il dottor Roia, è l'ultima razio. Noi non invitiamo e mai inviteremo, io non ho il porto d'armi, come parlamentare potrei chiedere il porto d'armi, ma non voglio e spero che non vorrò mai avere il porto d'armi, perché è sempre una situazione in cui non spero mai mi verrò a trovare, e spero che coloro che parlano e commentano mai si verranno a trovare, perché trovarsi con una pistola di fronte o dover sparare con la possibilità di ferire o uccidere qualcuno penso che sia veramente devastante. Detto questo, ampliare le possibilità della legittima difesa a chi entra in casa mia o a chi entra nel mio negozio, ripeto, tenendo come ultima, ma come ultimissima possibilità, quella di difendersi con le cattive maniere, penso sia un passo avanti verso la civiltà. Lei ha letto l'ultima agenzia, ecco, se questo signore albanese fosse andato in cantiere questa mattina alle 6:30, probabilmente non sarebbe in ospedale ferito oggi. Roia, lei pensa che ci sia una strumentalizzazione in alcuni casi da parte della politica di chi vuol cavalcare, oppure come giudica, voglio dire, una manifestazione anche politica di fronte oggi al Tribunale di Milano per sostenere la difesa di questa persona, di questo tabaccaio che è imputato, ripeto, rischia 9 anni e mezzo? Ma io rispetto sempre tutte le libere manifestazioni di pensiero e di critica, quindi la manifestazione della Lega da questo punto di vista è assolutamente legittima. La preoccupazione che io ho da magistrato è che i magistrati, come dire, non applichino la legge, non emettano sentenze anche sull'onda dell'aspettativa popolare di risposta di giustizia, perché questo sarebbe molto pericoloso, soprattutto in questo settore dove deve essere ben chiaro un principio, che farsi giustizia da sé è un punto inaccettabile proprio sul piano della civiltà giuridica ed è anche pericoloso, perché se voi ricordate la recente polemica avanzata negli Stati Uniti d'America per la troppa vendita di armi, che aveva non solo incrementato i casi di aggressione, ma non aveva dato nessun segnale positivo sotto il profilo del venir meno di un certo numero di reati. Quindi il detenere armi, il possedere armi, è una situazione che aggrava il pericolo. Come l'onorevole Salvini, anch'io non porterei mai un'arma, perché avrei paura non solo dell'uso che ne potrei fare, ma anche delle situazioni nelle quali mi potrei trovare. Allora, tra l'altro, daremo conto della sentenza durante la giornata, ne parleremo ovviamente perché è un fatto di cronaca molto, molto atteso. Ringrazio l'onorevole Salvini. Io devo chiudere, però, consigliere Roia, mi faccia fare una domanda su quello che è sulle prime pagine di tutti i giornali, visto che lei fa parte del CSM, il CSM che si appresta a bocciare duramente da parte della magistratura il disegno di legge sulle intercettazioni che sta facendo il governo. In 30 secondi ci spieghi perché la posizione è molto dura. L'avvocato Ghedini di Berlusconi ha detto una reazione da stato bolscevico, credo oggi sui giornali, quella del CSM, un parere non richiesto. Ma innanzitutto il parere che dà il Consiglio Superiore è previsto dalla legge istitutiva del 1958, quindi c'è una specifica norma di legge che consente di dare un parere. Un parere che non è ovviamente assolutamente vincolante, è un contributo di natura tecnica e scientifica. Il Consiglio è composto da una comunità di giuristi, ci sono magistrati, avvocati, professori universitari, che in questo caso ha studiato attentamente le norme e ha tratto determinate conclusioni che sono quelle che oggi verranno discusse dall'assemblea plenaria. Molto dure sono quelle anticipate sui giornali. È un testo approvato dalla Commissione. Noi abbiamo verificato l'impatto di quella normativa in determinate situazioni e verifichiamo che, per esempio, non si può più intercettare nel caso sia commesso un omicidio in danno di ignoti. Verifichiamo che per i presupposti sono i gravi indizi di colpevolezza e quindi non è più un mezzo di ricerca della prova, ma è un mezzo di completamento della prova, e quindi questo porta a eliminare le intercettazioni in una serie di situazioni che sono assolutamente indispensabili nel nostro sistema. La ringrazio, grazie a Matteo Salvini e grazie a Fabio Roia, consigliere del CSM. Il traffico, poi torneremo su un tema molto caro anche agli ascoltatori, i costi della politica, e torneremo tra l'altro in Trentino Alto Adige. Strade in diretta. Continuano i disagi sul tratto appenninico dell'Autosole, ci sono lunghe code per un incidente tra Ronco Bilaccio e Calenzano verso Firenze. Diverse vetture, anche mezzi pesanti coinvolti in questo incidente, anche se da pochi minuti sono state liberate tutte le corsie, quindi le code dovrebbero smaltirsi a breve. Ci spostiamo in Piemonte, 4 km di coda per un altro incidente sulla Torino-Milano, sono tra Novara Est e Arluno verso Milano, un furgone e una vettura coinvolte in questo incidente e si viaggia ancora su una sola corsia. Sempre in Piemonte, chi viaggia sulla diramazione Predosa-Bettole non può immettersi sulla 26 dei Trafori verso Genova. Il bivio è chiuso per un mezzo pesante che si è ribaltato, mentre in città Roma code per un incidente sulla via Pontina, tra via di Decima e via Tor de Cenci verso la città. Il brutto tempo ha oggi ripercussioni anche sui collegamenti marittimi. A causa del mare mosso ci sono forti disagi per tutti i collegamenti tra la Sicilia e le isole minori. E infine, per chi viaggia in treno, ricordiamo lo sciopero di quest'oggi del personale delle Ferrovie Nord di Milano, previsto dalle 10 alle 14, e ci potranno essere ritardi e soppressioni fin dalle 9 e ancora fino alle 16.30. È tutto, ci risentiamo tra circa un'ora. 24 mattino. Scriveva nei giorni scorsi un giornale locale che non è detto che la trombatura alle elezioni provinciali in Trentino Alto Adige sia per forza una sconfitta, vuol dire non essere rieletti in senso trombatura. Chi non è stato rieletto ed era al primo mandato, 5 anni di legislatura in Trentino Alto Adige, ha avuto un trattamento di fine mandato liquidato con 55.000 euro più la restituzione di tutti i contributi versati per avere poi il vitalizio. Chi non vuole il vitalizio a 65 anni ha ottiene ritiene tutto indietro, i vitalizi, i contributi che ha versato per contributi previdenziali, si tratta di circa 3.258 euro al mese, insomma è arrivato un assegno circa di 200.000 euro, tutto compreso. Io saluto l'avvocato Mauro Bondi, buongiorno avvocato. Buongiorno a voi. Una delle persone che non ce l'ha fatta, non so se non si è ricandidato. No, non sono proprio ricandidato. Non si è ricandidato, ha detto le è bastata 5 anni. Però voglio dire, sì. Lei tra l'altro è la seconda legislatura, non è la prima volta. 200.000 euro tra tutto, tra restituzione, TFR, quello che sarebbe il TFR, restituzione dei contributi previdenziali versati e vuol dire rinuncio al vitalizio e quindi ridatemi indietro tutto. Beh, è una bella affare, insomma. Ma era meglio prima, le dico io, se avessi mantenuto il regime che c'era prima di essere eletto a 50 anni, quindi il prossimo anno, avrei avuto una pensione vita naturale durante di 3.690 euro al mese e dopo di me mia moglie. Questo era il regime che vigeva quando sono entrato, mi sono battuto in questi 10 anni per cambiare le cose, non sono cambiate del tutto, ma sono cambiate in meglio, nel senso che io non prenderò alcun vitalizio, quindi sì, rinuncio ai 3.700 euro al mese, che sono 40.000 euro all'anno per un'aspettativa di vita di... Per aver fatto 5 anni il consigliere provinciale, questo. Prego? Per aver fatto 5 anni il consigliere provinciale, quello è il vitalizio. Ne ho fatti 10. 10, scusa. Io ne ho fatti 10, quindi avrei avuto diritto a 3.700 euro al mese, che è poi il regime che vige in tutta Italia e che vige, sì, per i nostri, certo, parlamentari. In Trentino qualcosa abbiamo fatto, abbiamo abolito i vitalizi, certo, le indennità sono molto alte e quindi la restituzione di quello che la regione tratteneva sulla busta paga è stata restituita. Se non fosse così, oltre a quello che metteva il consigliere sulla propria busta paga, la regione ovviamente, essendo la vita più lunga di quello che si possa oggi pensare, avrebbe dovuto spendere molto di più. Cioè, lei dice ha fatto fare anche un risparmio, se si vuole, alla regione, perché è mandato tutto subito, rinuncio al vitalizio, che tra l'altro è reversibile anche con sua moglie. Beh, questa è interessante. Cioè, lei ha fatto 10 anni il consigliere provinciale, ma se avesse detto prenderò il vitalizio più avanti, poi sarebbe stato anche... anche per la moglie, che è quello che vige per i parlamentari in Italia. Sì. Io sarei contento, è stato un grande scandalo, voglio dire, per come è stato denunciato. Io sarei per abbassare l'indennità, il problema è che in Italia le indennità sono più alte del resto d'Europa, perché una volta, ad esempio, io ero nei DS, il 50%, compreso il vitalizio, lo versavo al partito e quindi era una forma di, diciamo così, finanziamento dei partiti. Lo scandalo oggi è che i partiti sono finanziati con il rimborso sulla base dei voti presi, certo, e in più i consiglieri prendono vitalizi altissimi e non versano più niente al partito. E in più fanno anche un altro lavoro, quindi quello è il vitalizio per 10 anni o 5 anni di consigliere. Certo. Poi intanto uno fa il proprio lavoro, perché in Italia si può fare il politico, certo, e continuare a fare un lavoro e quindi maturare una seconda pensione o una terza pensione con il proprio lavoro. E insomma, la raccontiamo così, però anche il fatto che vengano restituiti tutti i vitalizi che vengono versati durante i mesi di legislatura, la vede una cosa normale, secondo... No, non è normale. Perché voglio dire, io verso i contributi come tutti gli italiani, non è che nessuno mi viene a restituire i contributi se mi succede qualcosa. Il problema è, ripeto, la radice, e cioè che l'indennità, e quindi quella che chiamiamo volgarmente la busta paga del politico, l'indennità è troppo alta, perché una parte viene trattenuta dalla regione o dal Parlamento, ma la realtà è, essendo un salario differito, che la busta paga di un politico oggi pesa per 10.000 euro al mese. Questo è il punto. E credo che sia il doppio di quello che è, diciamo, in tutto il resto del paese. Proprio perché una volta il 50% lo si versava al partito, quindi alla fine il consigliere prendeva quello che prendevano gli altri. E oggi non è più così. Io in questi 10 anni, ripeto, se fossi rimasto col vecchio regime costerei 1.200.000 euro alla mia regione se vivessi fino a 80 anni. In questo modo evidentemente c'è un risparmio del 90%. Certo, in ogni caso, avvocato, per chiudere, ho proprio 10 secondi, la dimostrazione che fare politica, insomma, è anche a volte un bel affare, un bel investimento, no? Non per tutti. Un investimento economico, dico. Neanche questo. quello per tutti, perché ad esempio chi svolge la mia professione, io è quello che guadagnavo prima da avvocato, e se proprio facciamo i conti guadagniamo prima. Però c'è sempre la possibilità di continuare a farlo. Comunque la ringrazio, avvocato Mauro Bondi, è stato molto cortese e gentile con noi, ex consigliere ovviamente in Trentino Alto Adige. Ci fermiamo qui ringraziando Laura Marchesi e Alessandro Marcotulli in redazione, Peter Bescapè in regia. Tra poco, voglio ricordare, c'è Giuliano Ferrara con Il caso Mentana, con Enrico Mentana, ospite di Radio 24. 800 24 0024 per intervenire, dunque, con Giuliano Ferrara, Enrico Mentana, tra poco dopo GR24.